Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dice 17:16 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiedo scusa per il ritardo, abbiamo avuto qualche problema organizzativo. Giornata chiaramente, come vi hanno ricordato i nostri GR24, in cui da un lato oggi restano moltissime, ne parlava prima anche il collega Musumeci, moltissime tensioni, preoccupazioni sull'effettivo danno, chiaramente non solo economico in primo luogo, di carattere anche sociale e medico, ma anche economico, non tanto sul coronavirus in senso stretto, ma su quanto andrà avanti, se posso usare questo termine poco medico, l'isolamento, la quarantena. Sono più tra i 50 e i 70 milioni di cinesi che in questo momento vivono in situazioni di coprifuoco, non possono spostarsi nemmeno con mezzi pubblici, non possono avere autorizzazione a spostarsi dal luogo in cui risiedono. E i morti sono 361 ad ora, e quindi superano una decina quelli della SARS. Però mi sembra che il tema non sia, per carità, con massimo rispetto, solo i morti e diciamo l'impatto medico del virus. Qui forse perché ai tempi della SARS i social e l'economia era anche meno globalizzata, forse perché in realtà rispetto alla SARS c'è stata una gestione che alcuni criticano da parte del governo cinese, eccessivamente in qualche modo resistente ad aprire i dati. Poi i dati sono arrivati, avete visto cosa ha fatto lo Spallanzani, in merito va anche alla qualità della nostra ricerca, della nostra medicina. Però la sensazione che molti operatori ci hanno raccontato in questi giorni è che è la sensazione di incertezza, non è sulla gravità e anche aggressività di questo virus. Ormai qualcosa si sta capendo e si è capito, è sulla poca chiarezza che ancora molti vedono nelle informazioni che arrivano dalla Cina, e la conseguenza, il ragionamento che stanno facendo le borse, non oggi, se la Cina dovesse avere un primo trimestre ormai compromesso, pensate solo a Hong Kong, cos'era successo nel mesi scorsi, e infatti oggi il PIL di Hong Kong ha fatto meno 1,2%, riferendosi però come conseguenza ai disordini del 2019, ora vedremo con l'incognita virus. Ma se la Cina dovesse avere un primo trimestre ormai compromesso, seriamente compromesso, questo avrebbe ripercussioni anche e soprattutto per la filiera tedesca. Qui devo entrare nei temi classici di questo programma. La Germania è il paese più integrato economicamente con la Cina dei paesi europei, e problemi sulla filiera tedesca significherebbero, ahimè, come già sappiamo per quello che è successo nell'automotive tedesco, rallentamenti anche per quello che riguarda la produzione industriale italiana, laddove è diretta come export alla Germania. Le borse cinesi, allora adesso le borse europee sono tutte sostanzialmente positive, non di tantissimo, più 0,90% Milano, mezzo punto di rialzo per Parigi, e ancora mezzo punto per Francoforte, e ancora Londra più 0,70, più 0,85% in questo momento. Questa mattina la gelata era arrivata soprattutto da alcune borse cinesi. Ora Shanghai, la borsa più internazionalizzata è quella di Hong Kong, che questa mattina aveva chiuso quasi in pareggio, più 0,2. Però le borse cinesi, tra quelle di Shanghai e quelle di Shenzhen, hanno bruciato, come si dice in gergo, cioè ridotto la capitalizzazione di 420 miliardi di dollari. Questo nel primo giorno di scambi, anche perché c'era stata per le borse cinesi, Hong Kong è una borsa diciamo cinese ma occidentale, c'era stata la sospensione per via del capodanno cinese, e il crollo di questa mattina la dice lunga sulle ripercussioni dentro la Cina: meno 7,70% Shanghai, meno 8,40% Shenzhen. La Cina sta valutando un taglio delle stime sulla crescita. Già l'anno scorso la crescita era stata per i livelli cinesi deludente, 6,1%, quest'anno era stimato in un 6,5%, scusatemi, già stanno valutando una riduzione di almeno mezzo punto percentuale. Le 24 province, poi andiamo anche su altri temi, ma mi sembra quello più importante oggi, le 24 province e municipalità cinesi che hanno rinviato la ripresa delle attività economiche, non quelle che sono in quarantena, diciamo, dove è impossibile uscire e accedere. Parlo delle province che hanno rinviato la riapertura delle attività economiche, come ci ha raccontato anche il nostro ospite la settimana scorsa, Saro Capozzoli, sono 24 appunto, e da sole fanno l'80% del PIL dell'intera Cina. Non apriranno prima del 10 febbraio. Anche qui, dovesse rientrare in un tempo relativamente breve, tu potresti anche immaginare una ripresa, cioè un recupero della produzione che va a colmare anche la mancata produzione dei primi giorni, quando hai chiuso invece che riaprire dopo il Capodanno. Ma un prolungamento della crisi da coronavirus e un'incapacità di sviluppare forme più efficaci di contenimento, beh, vorrebbe dire compromettere l'80% del PIL cinese nei primi tre mesi dell'anno, tant'è che la banca centrale cinese, la People Bank of China, ha iniziato a fare quello che fanno le banche centrali in questi casi, cioè ha iniettato sul mercato 150 miliardi di yuan. Non è tantissimo, sono 20 miliardi di euro, un po' di meno, però la valuta cinese stava precipitando, e quindi questo serve anche un attimo a dare un po' di respiro. Parleremo di questo tema nel doppio aspetto, sia sul fronte internazionale che sul fronte anche nazionale, e cioè, faccio un esempio, Federturismo Confindustria ha deciso di istituire una task force interna in collaborazione con il MIBACT e l'ospedale Spallanzani di Roma, ripeto, a cui va tutto il plauso per essere stato il primo, a parte i cinesi, a isolare il coronavirus. Dicevo, una task force per dare una comunicazione corretta ai dipendenti e ai clienti ed evitare, e questa è una ragione anche loro, il diffondersi di panico, di false notizie, panico ingiustificato. A me è arrivato di tutto in questi giorni, immagino anche a molti di voi, audio di gente che sa per certo che il virus l'hanno creato in laboratori cinesi, altri che sanno per certo che l'hanno creato gli americani. Addirittura ho reso conto di uno che stava nella zona di Wuhan, che dettagliava proprio. Ora, aggiungiamoci anche che è l'anno del topo e che l'astrologo aveva detto a gennaio che entrava, non mi ricordo più che cosa, Saturno in Urano. Adesso andiamo a riprenderci anche l'astrologo, che sarebbe stato un mese terribile che non capitava da 500 anni, va bene, per carità. Ma insomma, restiamo sui fatti, per favore, che tutto, di tutto c'è bisogno, tranne che adesso il panico ingiustificato. Altra cosa è ragionare sul fatto che se la Cina frena e rallenta, e una ripercussione a livello mondiale ci sarà. Questo non è fare panico, questo è fare informazione e cercare anche di dare qualche stima. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e parleremo appunto dell'impatto della tensione del coronavirus sull'industria e sull'economia italiana, ma anche nella seconda parte dello scenario macroeconomico mondiale. Come sempre lunedì torna, la settimana scorsa non l'abbiamo fatto perché eravamo in commento post-elettorale, torna l'appuntamento con Alessandro Praterotti, e quindi l'appuntamento con Dentro la Notizia. Oggi volutamente non l'abbiamo fatto fare sul coronavirus, perché sarebbe stato, diciamo, eccessivamente monografico. Ecco, in regia hanno trovato, c'è la congiunzione di gennaio, c'era Capricorno, Saturno e Plutone, tutti congiunti, così capisco io. Vabbò. Ah. No, qualcuno mi dice, ma chi è che ha dato il virus? No, il virus è stato isolato dalla Cina, ma non era diffuso, dall'Istituto Pasteur e dallo Spallanzani. E in Australia, se non ricordo male, adesso vado per la memoria, anche in Australia, però cioè, si può dare lo stesso merito allo Spallanzani di Roma per aver risolto. No, non cambia molto. Ma no, qualcuno adesso se la prende con l'astrologia. Io trovo più grave, più che l'astrologia, trovo più grave questo continue voci su complotti, virus messi in giro da laboratori segreti. Mi fanno più girare le scatole quelle rispetto all'astrologia, che vabbè, uno se vuole ci crede, se vuole non ci crede, ma non è così dannosa. Altra cosa è immaginare appunto l'arma batteriologica cinese. Tra l'altro io leggevo varie interviste ai ricercatori primari dello Spallanzani, e loro hanno anche capito come mai dal pipistrello, visto come lì sembra, si sia modificato verso l'uomo. Ma andiamo sulle altre notizie, non posso fare l'intera puntata sul coronavirus. La Brexit, dopo il festeggiamento degli inglesi, va benissimo, festeggiano gli inglesi, o meglio gli inglesi che hanno a favore della Brexit, ovviamente. Adesso Johnson alza il tono, dice: il Regno Unito vuole un accordo con Bruxelles per il dopo Brexit fondato sul libero scambio, che non richiede alcun allineamento alle regole e agli standard europei. Sulla politica della competizione, i sussidi, la protezione sociale, l'ambiente, nulla di simile. E lo ha detto in maniera molto netta oggi, illustrando la sua piattaforma negoziale. Ha assicurato che su queste materie a rischio di concorrenza sleale per i 27 Londra avrà standard elevati, ma senza accettare di regolare in un trattato. Traduco: l'Europa è preoccupata che se l'Inghilterra inizia, la Gran Bretagna inizia a non applicare gli standard europei, si comporta come un paese in via di sviluppo, un'economia emergente quanto a standard, e fa concorrenza sleale dentro un continente, perché geopoliticamente la Gran Bretagna non sarà più dentro l'Unione Europea, ma geograficamente ancora nel continente europeo, piaccia o non piaccia agli inglesi. E allora dice: noi manterremo lo standard elevato, non vi faremo concorrenza tra virgolette interna, però non vogliamo regolare queste attività attraverso un trattato. E poi ha continuato: la scelta dei negoziati sulle relazioni post Brexit fra il Regno Unito e l'Unione Europea non è un fra deal e no deal, cioè fra accordo e non accordo, è una relazione comparabile a quella del Canada. E ricordate che col Canada c'è stato un accordo molto importante e molto proficuo anche per i nostri produttori, contrariamente a chi diceva che avremmo importato chissà che cosa dal Canada, perché è un accordo di libero scambio con zero dazi, è più simile o simile a quello tra Australia e Unione Europea, c'è un'intesa minima. Quindi Johnson sta a dire che, cosa che avevamo previsto la settimana scorsa, che adesso, vinta politicamente le elezioni, vinta anche la Brexit perché l'ha fatta, adesso potrà andare a trattare da un punto di forza più alto rispetto alla sua opinione pubblica, e quindi probabilmente accetterà anche qualche compromesso in più. E infatti il messaggio è: non c'è solo bianco e nero o l'accordo o nessun accordo, ci sono tanti tipi d'accordo. Lui cita quello con l'Australia, tra Unione Europea e Australia, quello tra Unione Europea e Canada, aggiungerei anche quello tra Unione Europea e Norvegia, se proprio vogliamo guardare in casa nostra. Comunque sentiamo Johnson. There is no need for a free trade agreement to involve accepting. Non è necessario un accordo di libero scambio che implichi l'accettazione delle norme dell'Unione Europea in materia di politica di concorrenza, sussidi, protezione sociale, ambiente o cose simili. In quanto l'Europa dovrebbe essere obbligata ad accettare le norme del Regno Unito. Il Regno Unito manterrà i più alti standard in questi settori e in molti casi farà meglio dell'Unione Europea senza l'obbligo di un trattato. È vitale dirlo ora, chiaramente, perché ci è stato spesso detto che dobbiamo scegliere tra il pieno accesso al mercato europeo, insieme all'accettazione delle sue regole e dei tribunali sul modello norvegese, o un ambizioso accordo di libero scambio che apre i mercati ed evita la piena panoplia della normativa europea, sull'esempio del Canada. Abbiamo fatto la nostra scelta. Vogliamo un accordo di libero scambio simile a quello del Canada. Ma nell'improbabile caso in cui non ci riusciremo, allora il nostro commercio dovrà basarsi sul nostro attuale accordo di uscita dall'Unione Europea. La scelta non è, sia chiaro, tra deal o no deal, perché un accordo l'abbiamo già raggiunto. La questione è se possiamo arrivare a un rapporto commerciale con l'Europa paragonabile a quello del Canada o più simile a quello dell'Australia. In entrambi i casi non ho dubbi sul fatto che il Regno Unito prospererà e potrà esprimere tutto il suo potenziale. Vedremo, sì, poi ha fatto una gaffe, ma è stato chiaramente un lapsus freudiano. Ha parlato di ha detto non smetteremo di importare i vini tedeschi o le automobili italiane. Immagino che intendessi i vini italiani e le automobili tedesche, magari anche le automobili italiane. È più difficile importare i vini tedeschi. Adesso non è che mi scrivete però dall'Alsazia per... Allora andiamo avanti. La sovranità di Gibilterra è indivisibile, questo sempre Johnson. Il commissario che è il capo negoziatore europeo, Michel Barnier, ha detto non mi lascerò impressionare dalle dichiarazioni di Johnson. Quello che mi interessa è la prospettiva, difenderemo gli interessi dei paesi, dei cittadini europei. Adesso Johnson può dire quello che voglio, è quello che vuole. Però faccio notare che se andiamo a vedere i rapporti commerciali tra Gran Bretagna, col massimo rispetto dell'Unione Europea, beh, non c'è partita. O la Gran Bretagna si mette a importare con costi molto più alti cose che non neanche producono gli Stati Uniti o altri paesi, o se no, attenzione, non è che importa solo pomodori, importi solo pomodori o arance, la Gran Bretagna importa tecnologia, automobili, tante altre cose che non fa in casa. Non hanno una gran manifattura la Gran Bretagna come paese, è più un'industria basata sui servizi, quello sì. Però Barnier ha anche precisato: il Regno Unito non potrà più beneficiare dei diritti e dei vantaggi economici se il 31 dicembre lascerà il mercato unico e l'unione doganale. Questo è il quadro in cui ci muoviamo. Dopo Barnier ha anche aggiunto: siamo pronti ad offrire un accordo molto ambizioso che includa tariffe e dazi zero su tutte le merci. Modello, appunto, aggiungo io, Canada. Vendredi dernier a minuit, le Royaume-Uni a donc quitté l'Unione Europea. Venerdì scorso a mezzanotte il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea. È stato un momento grave, molto grave, e di emozione. È stato anche il momento di un nuovo inizio, di una nuova relazione, perché il nostro obiettivo ormai è costruire con questo grande paese vicino, amico, alleato, un nuovo partenariato. Ho semplicemente raccomandato di rimanere lucidi e di non dimenticare che la migliore relazione con l'Unione Europea è e sarà di restarne membro. Quando non si è parte della UE, si ha una situazione diversa e meno favorevole. Dobbiamo ora affrontare le conseguenze delle scelte del Regno Unito, ossia di lasciare l'Unione il 31 dicembre, se ho capito bene Boris Johnson, il mercato unico e l'unione doganale. Ciò vuol dire, tra l'altro, mettere fine alla libertà di circolazione, che è una delle basi dell'Unione, di lasciare il nostro ecosistema comune costituito da regole, standard, diritti, supervisione e giurisdizione comune. Alla luce di tutto questo, il Regno Unito non potrà beneficiare dei vantaggi economici di uno Stato membro a partire da fine anno, se la data verrà confermata. È importante inoltre capire che anche se riuscissimo a raggiungere il miglior accordo possibile di libero scambio, avremo due mercati separati invece di un unico mercato. Le regole di origine e le formalità doganali saranno applicate. L'accesso al mercato europeo sarà soggetto a certificazione e autorizzazione di mercato. Dunque andiamo sul meteo. Ho detto Alsazia invece che dire Renani, scusate, chiedo scusa ai francesi, agli alsaziani in primis. No, mi riferivo ai vini tedeschi che ci sono, spero di non ricevere critiche dai vini che sono renani. Di solito, se non ricordo male, sono Riesling e Gewürztraminer, un pochino troppo fruttati per i miei gusti, ma non è questo l'oggetto del programma. Nessuna offesa alle alsaziane neanche ai vini renani, però era chiaro il lapsus di Johnson. La von der Leyen ha detto non vi sarà nessuna scorciatoia per il mercato unico, cioè, come dire, attenzione, l'Unione Europea ha vari modelli di accordo di libero scambio e ha citato appunto il Canada, il Giappone, Singapore, Norvegia, l'Australia. Ciascun modello però rappresenta un'offerta diversa e ciascuno di questi modelli comporta un equilibrio tra diritti e doveri. Non esiste una corsia gratis per accedere al mercato unico. Che cosa vuol dire la von der Leyen? Secondo me ha ragione da vendere. Ci sono appunto tanti grigi, non è solo bianco o nero, accordo o non accordo. Però se la Gran Bretagna e Johnson immaginano di avere tutti i benefici di quando restavano nell'Unione Europea senza stare nell'Unione Europea, questo non funziona. Ma non funziona con nessuno di questi accordi che ho citato. Comunque, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul meteo, poi cerchiamo di capire che cosa si fa anche in Italia sul fronte del turismo, che rischia nel brevissimo, anzi lo è già. Sono 2-3 milioni circa i cinesi che vengono in Italia e vengono soprattutto per fare acquisti nel lusso, ecco perché la moda è calata subito in borsa. Che cosa sta cercando di fare per evitare informare ad evitare il panico, le informazioni trovate così sulla rete che quanto mai si rivelano fallaci. Focus Economia. Dunque, Federturismo e Confindustria hanno deciso di istituire una task force interna in collaborazione con il Ministero, con MIBACT e con l'ospedale Speranzani di Roma per coordinare la comunicazione interna ed esterna attraverso un vademecum per dipendenti e clienti, utile ad evitare il diffondersi di false notizie o di panico ingiustificato. Allora, il Consiglio dei Ministri ha stanziato iniziali 5 milioni di euro per... e ha dichiarato stato di emergenza sanitario di 6 mesi e ha sospeso il traffico aereo da e per la Cina. Ormai insomma la maggior parte delle compagnie hanno bloccato i voli. Due dati prima di salutare la nostra ospite. Il primo, al di là dei 70 miliardi che vale la nostra industria turistica, i cinesi previsti arrivare in Italia nel 2020 erano 4 milioni, dico erano perché adesso dubito che saranno confermati, contro i 3 milioni e mezzo dell'anno passato. In media ogni viaggiatore cinese è un viaggiatore che spende abbastanza, spende 1200 euro a testa, e il giro d'affari del comparto turistico Italia-Cina è stato di 460 milioni di euro. Sappiamo che poi sono turisti che vengono a comprare anche e soprattutto il nostro lusso. Dottoressa Marina Landi, vicepresidente di Federturismo Confindustria, buonasera. Buonasera a voi. Che cosa prevede l'accordo con l'ospedale Spallanzani, col Ministero? Ma semplicemente noi abbiamo voluto un po' evitare che si verificasse quello che purtroppo spesso ormai vediamo sui nostri social, cioè una diffusione di fake news che dovevano finire, avrebbero creato allarmismi inutili. Quindi fermo restando ciò che ci viene imposto dal nostro ministero, ci viene imposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, al netto di tutto ciò noi volevamo però capire e dare indicazioni precise sia a chi opera nel turismo sia a chi vuole invece essere un turista in queste ore, perché al momento quello che noi possiamo dire è che l'Italia è e resta una meta sicura. Al momento la situazione in Italia è sotto controllo e quindi questo è bene comunicarlo a chi frequenta questo mondo. In più, con lo Spallanzani, che peraltro si è rivelato al di là di ogni rosea aspettativa essere un perfetto partner, abbiamo voluto capire come regolarci anche nei confronti delle persone che lavorano nelle nostre aziende nel turismo in Italia, per dare delle indicazioni precise, per poter riconoscere i sintomi, per proteggersi nel momento in cui si viene a contatto o comunque essere protetti quando si è a contatto con tanti viaggiatori, perché questo ci sembrava un modo responsabile di muoverci. E peraltro da domani, attraverso il nostro socio Astoi, aggiungeremo anche la parte dell'unità di crisi della Farnesina a questa task force. Senta, voi che cosa state... Allora, è chiaro che in questo momento le reazioni sono molto spesso irrazionali, abbiamo visto anche così casi da Candid Camera di persone cinesi che provano a tossire in metropolitana, in autobus. Vabbè, questo guardi, io però purtroppo conduco da troppi anni forse questo programma, ricordo che quando il problema era rappresentato dalle feci delle anatre che volavano dalla Cina verso l'Europa... quel settembre lì, era settembre, se non ricordo male, settembre-ottobre, il gruppo Aia Arena della famiglia Veronesi bruciò, adesso non mi ricordo se in una settimana o in un mese, 300.000 polli, nonostante si continuasse a dire che, attenzione, la contaminazione con l'emigrazione delle feci, delle oche asiatiche non poteva avvenire quando tu i polli li hai nella batteria dei capannoni. Cioè, nonostante nessuno comprò più i polli e tacchino, crollò il consumo... 300.000 polli bruciati per nulla. Quindi io mi aspetto che vi sia qualche reazione, ma voi che cosa state notando di più pericoloso, strutturale e meno emotivo? Noi stiamo notando il fatto che comunque ci sono delle disdette molto serie, di numeri di viaggiatori. Avevamo peraltro non più di 2 settimane fa inaugurato l'anno del turismo e della cultura Italia-Cina e il loro grandissimo tour operator Ctrip, adesso trip.com, aveva appunto portato e snocciolato una serie di numeri molto interessanti, sui quali peraltro le nostre aziende avevano anche preparato degli investimenti. Ricordiamoci che il mercato del lusso della Cina vale il 35%, 22% l'USA, il 17% l'Europa, quindi noi siamo ormai diventati fortemente dipendenti anche da questo mercato. E quindi Senta, per concludere, però io, adesso magari mi sbaglio, penso una cosa, al di là del è un po' quello che abbiamo detto prima per Hong Kong e anche per la Cina in generale. Allora, che vi sia stato un danno adesso, insomma, le attività sono chiuse, l'80% del PIL cinese non riapre, per le aree interessate apriranno con almeno una settimana di ritardo, il danno c'è già. Però noi sappiamo che in economia un conto è un danno a breve, cioè tu non produci per quella settimana, poi aumenti la produzione nei mesi successivi, nell'arco di 6 mesi ti sei già riposizionato sui livelli pre-coronavirus in questo caso. Altra cosa è qualcosa di strutturale, e cioè che va a contaminare e rendere molto difficile pregiudicare tutto l'anno. Ecco, voi su quale delle due siete più orientate? Perché poi il turismo dei cinesi sì, arriva anche adesso, ma c'è poi soprattutto la parte della stagione estiva. Prego. E il punto è proprio questo, che il turismo si svolge su prenotazioni a lungo termine, per viaggi soprattutto così da viaggi così lunghi, certo. Esatto, e quindi questo purtroppo ci fa prefigurare una, ammesso pure che il tutto si risolva nelle prossime 2 settimane, come tutti ci auguriamo, effettivamente ci fa prefigurare comunque una stagione lunga che ci porterà con risultati che ci fanno perdere quello che invece noi avevamo stimato di raggiungere con questi numeri che 4 milioni. Esatto, sì, poi non vorrei essere nella situazione di un albergatore veneziano, perché prima la quarta, le notizie che sono diffuse e adesso pure i cinesi che vengono meno. Io mi auguro che lei abbia ragione, temo, ma non voglio darmi il gufo da solo, che la sua previsione, dottoressa, di 2 settimane sia un pochino ottimista. Qua. Ovviamente. E quindi, io gli dico, sa, c'è l'ottimismo della volontà, però se devo ragionare con pessimismo della ragione, qui stiamo ragionando di mesi. Certo, ma io infatti dicevo che appunto anche nella previsione più rosea delle 2 settimane, il problema è che quando si perdono le prenotazioni a lungo raggio, comunque. Sì, certo, non è un viaggio a Londra o a Barcellona che rifai il mese dopo, soprattutto quando pianifichi un viaggio in Europa dalla Cina. Oh, in bocca al lupo anche a voi, grazie. Quindi alla vicepresidente di Confturismo. E per quello che riguarda, molti mi dicono ma non c'è solo il turismo, ho capito, faremo un tema per volta, non è che posso fare tutti i temi in una volta sola. Grazie, dicevo, la vicepresidente di Federturismo Confindustria Marina Landi. Andiamo sul traffico e poi torna, ripeto, la settimana scorsa c'era la pausa elettorale dentro la notizia, che intanto non parlerà di Cina perché sennò facciamo una monografica sul coronavirus, e in secondo luogo, visto che non mi sembra una puntata di notizie così allegre, avremo una notizia positiva. Mi riferisco all'appuntamento con Alessandro Platerotti dopo il traffico. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta Focus Economia. Dietro la notizia. E torna appunto dietro la notizia con Alessandro Platerotti. Dicevo, una notizia positiva, qua continuano a scrivermi. Addirittura si parla di stiamo cancellando prenotazione per la fiera di aprile del vetro a Shanghai. Ho capito? E questo poi si chiama turismo d'affari, diciamo così, viaggi d'affari, a maggior ragione lì pianifica ancora con più tempo. Non oso pensare cosa capiterà, ma guardate che non c'è da ridere. Vedo qualcuno dice meno male, una buona notizia. No, ci sono migliaia di imprese italiane che vendono macchinari, meccanica in Cina, e che se non vanno a fare le fiere e non la vendono, non so, non capisco cosa ci sia da festeggiare. Invece, Alessandro Platerotti, qual è la buona notizia, che non è facile in questo gennaio o febbraio ormai con quattro pianeti in Capricorno e poi non mi ricordo più cosa. La buona notizia è che delle volte i mercati si comportano in modo, quando diciamo, in modo irrazionale o altrimenti esuberante. Però insomma, questo periodo qua non è certamente un periodo allegro per le borse, ma per i titoli di Stato, se andate a guardare un po' quello che sta succedendo, vi accorgerete che improvvisamente il mercato non solo corre verso i titoli sicuri, ma sta correndo soprattutto verso il nostro. Se andiamo a prendere la performance delle ultime settimane, anche post-elettorale, ma anche lievemente pre, ci sono due fenomeni che sono degni di essere un po' di guardare dietro la notizia. Uno, il ritorno degli investitori internazionali. Negli ultimi due mesi sono stati il vero fenomeno e con, addirittura con un balzo del 7% che non si registrava da anni rispetto agli acquisti di titoli di Stato italiani, soprattutto a lunga scadenza, i BTP. Risultato qual è? Risultato che noi siamo attualmente al minimo di un anno come tassi di interesse, abbiamo perso 177 punti base in 12 mesi e soprattutto lo spread, quest'altro animale che ci spaventa sempre. Se a ad oggi, che anche oggi è basso, 138. Meno 62,6 punti di spread negli ultimi sei mesi. Ma allora uno si domanda, ma di chi è il merito? È della politica? È la stabilità? È l'Europa? È la BCE? Beh, è difficile dirlo, certamente è un mix di tutto ciò, ma quello che è interessante notare che cos'è? Che malgrado i nostri errori, le nostre criticità di paese, le difficoltà, il debito che periodicamente ritorna su e l'Europa che ci minaccia, gli algoritmi di due delle più importanti osservatori, in questo caso dei tassi di interesse, sto parlando di Trending Economics ed Investing, hanno tirato fuori dei risultati, e questi ve li do freschi freschi, che a me hanno sorpreso molto. Secondo le loro previsioni e sulla base delle variabili di questo periodo, ovvero post-voto in Italia, anche il caso cinese c'è dentro, perché l'effetto dell'incertezza spinge verso i titoli di Stato, loro che cosa prevedono? Prevedono che anche se il governo dovesse fare niente, mettiamola così, non voglio dire il positivo, ma non dovesse per fare molti nulla. Ascoltatori non è un è non più è un'ipotesi, semplice ma metterla certezza, così diciamo. Non dovesse fare nulla, gli algoritmi prevedono che noi a fine a settembre 2020 avremo i tassi di interesse allo 0,3%, attualmente sono allo 0,9, ma la sorpresa più grande qual è? Se questo uniamo i nuovi acquisti che sono previsti dalla BCE, perché dicono che ne abbiamo ancora bisogno, viene fuori che noi per la prima volta nella storia avremo il decennale con tasso negativo a marzo del 2021. Allora, attenzione, meno 0,021. Il BTP è decennale. Il BTP è quello che noi invidiamo ai tedeschi. Cioè, allora, per prestare soldi all'Italia a 10 anni sei disposto a perderci dopo 10 anni. Senza aver ridotto il debito. Allora, che cosa dobbiamo fare? Questa, attenzione, non è una raccomandazione d'acquisto. Sono gli algoritmi che danno queste indicazioni, ma devono far riflettere sia i nostri politici quando rivendicano dei risultati che spesso non sono loro, ma anche far riflettere sul fatto che in queste condizioni ti puoi solo fare del male se vai a fare degli strappi troppo forti su quelli che è una congiuntura internazionale debole e economicamente e politicamente fragile. Questa storia del virus cinese è da una parte, diciamo così, allarmante per tutti i cittadini europei, ma è anche allarmante perché? Perché l'unica cosa che è veramente mancata in questa emergenza è una risposta europea. Noi abbiamo una, se non sbaglio Sebastiano, abbiamo addirittura l'agenzia per il farmaco in Italia. Certo. No, non è in Italia, però è europea. Sì, mentre le compagnie sono mosse, ognuno per i fatti allora suoi. Ecco, attenzione, perché abbiamo una finestra che ci apre il mercato, che può aiutare l'Italia e tutto il paese, perché pagare meno debito, interessi meno interessi sul debito, potrebbe liberare soldi importanti per fare investimenti di cui abbiamo estremamente bisogno. Ma attenzione, perché questo è quello che dicono gli algoritmi, i fatti dovranno poi confermare che queste sono previsioni. Sì, e su questo io mi permetto di aggiungere un'altra raccomandazione alla tua, e cioè la politica, chiunque sia al governo, tenga presente di queste condizioni perfette che tu raccontavi. Esatto. E anche non meritate, se posso usare il termine. Sono perché d'accordissimo. Un po' è il timore sulla Cina. Sembra premiare il non fare. Però attenzione, che se nel momento in cui tu dovessi avere, come tu raccontavi, BTP, che anche noi abbiamo visto in asta, BTP e BOT, ai minimi storici, addirittura negativi. Meno 0,026% al marzo. Avresti 2021. Un tale risparmio sui circa 70 miliardi di interessi che paghiamo sul debito, che non puoi sprecare un'occasione delle vacche grasse, per usare un termine biblico, perché poi non è detto che questa situazione duri nei prossimi 2-3 anni. Quindi se devi fare delle operazioni di finanza pubblica, usa i soldi che risparmi degli interessi sul debito. Un altro punto importante, questo dimostra anche che non c'è nessun complotto contro l'Italia o cattiveria contro di noi. Il mercato va dove vede le migliori condizioni per guadagnare, non solo per chi poi ne beneficia. Ecco, tutto questo, mentre tu stai parlando, vedo è arrivata una notizia. Il Brent è crollato ai minimi da 13 mesi, ha perso il 3,4%, Alessandro, possiamo per concludere prevedere che l'aumento dell'incertezza, che comunque è un effetto del coronavirus, assolutamente, paradossalmente renda più sicuri i nostri titoli di Stato, i più deboli, la rivincita degli ultimi in questo senso. Ma è anche logico, perché l'impegno che vedremo nei prossimi mesi, se con questa emergenza, sarà un ricompattamento dei sistemi, cioè di dire dobbiamo rispondere insieme, dobbiamo essere, avere tenuta, e questo sicuramente è una garanzia. Ripeto, però è un assegno in bianco che ci è stato dato, non credo che sia giusto sprecarlo, bisognerà fare attenzione che ciò non avvenga. Allora, nel ringraziare Alessandro Patarotti, vedo anche molti messaggi di fiere. In effetti c'è il Mido, ce ne occuperemo, la fiera dell'occhieria. Dicono che stanno saltando tutte le presenze cinesi. Vedete, ragazzi, che poi c'è poco da scherzare sui cinesi. Ma tu parli del Brent. Chi è gli equipaggi delle petroliere vengono tutti dall'Asia, da quella parte lì. Ma infatti ho visto che il Baltic Dry Index è risceso. Attenzione, perché ci sarà una paralisi totale dei trasporti. Questa è la questione principale, perché il trasporto è l'altra faccia della mobilità internazionale, quella che poi avviene sul concreto. Lì avremo le maggiori disfunzioni: cargo, dogane. E questo riguarda globalmente, perché il transito delle merci, noi sappiamo bene che cosa significa semilavorato, può provenire da un paese, ma l'origine è un'altra, certo. E questo sarà una complessità. E noi siamo i principi, i re del semilavorato, perché materie prime ne abbiamo poche. E torneremo poi con Patarotti anche la prossima settimana su questo. Dicevo, messaggi dal Mido, della fiera più importante del mondo dell'occhiereria, sono molto preoccupati. Attenzione, non voglio portare sfiga, però mi stanno scrivendo anche molti ascoltatori che prevedono di esporre al Salone del Mobile di Milano, che ad aprile, mi dicono, se saltano i clienti cinesi che devono arrivare, qua noi siamo in ginocchio, so, aspettiamo un attimo. Magari veramente ha ragione la vicepresidente di Federturismo Confindustria, 2 settimane, io la vedo come un altro ottimismo, aspettiamo un attimo. Ma ripeto, godere come fanno alcuni perché si ferma la Cina, e non capire, come diceva Platerotti, quella che si chiama la catena del valore, che in questo momento, e quindi che tutti siamo interconnessi, piaccia o non piaccia. Grazie ad Alessandro Platerotti, che l'abbiamo lunedì prossimo. Andiamo sul traffico, sul GR24. Scusate. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Tutti gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi, e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sull'Autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Il segnale orario vi è offerto da... È ora di riscoprire il fuoco. Progetto Fuoco, 19 e 22 febbraio, Verona Fiere. Una classe A. Puoi chiedere tutto, anche di farti ballare. Runaway, turn away, runaway, turn away. Ehi, ehi, ehi, Mercedes, metti la canzone originale però. Va bene. Chiedi di più. Classe A180D con MBUX di serie. Fino al 29 febbraio con leasing My Drive Pass hai 4.000 euro di eco incentivo Mercedes-Benz e anticipo zero. Se permuti la tua auto anche Euro 5. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri anche classe A plug-in hybrid su mercedesbenz.it. Bella idea, i bassi e fissi. Eh sì, da Conad ci teniamo. Ecco perché mettiamo ogni giorno a prezzi bassi e fissi quei prodotti che in casa non devono mai mancare, senza girarci troppo attorno. È un modo concreto per accontentare ogni famiglia. È proprio vero che una comunità è più grande di un supermercato. Conad, persone oltre le cose. Allora, la figura che cerchiamo tiene l'azienda sempre in carreggiata. Sa quando fermarsi se ha un ostacolo davanti e sa leggere i segnali che si trova di fronte. Pensa di farcela? Ford Focus con frenata automatica, mantenimento corsia e riconoscimento segnali stradali. A 295 euro al mese, IVA esclusa, con anticipo zero. E in più assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria incluse. Il noleggio Ford All Inclusive va tutto di serie. Ed è per tutti, privati, aziende e partite IVA. No, è bella, ma non è questa. Suggestiva, sì, ma non è nemmeno questa.

Sogo e Seibu meno 15%, Mitsukoshi meno 10%. È chiaro che il Giappone è ancora più esposto dell'Europa verso il turismo cinese, sono il 30% di tutti i visitatori in Giappone sono cinesi e contribuiscono al 35% del totale delle spese turistiche. Quanto al discorso che faceva e quello che ricordava Alessandro Platerotti sullo spread, qualcuno mi scrive: beh, questo certifica che non c'è nessuna relazione con i fondamentali del paese. Allora, guardate, lo spread è sempre a 138. Il ragionamento di Platerotti era più sul rendimento dei nostri bot e BTP a 10 anni, ma è chiaro che c'entrano i fondamentali del paese, tant'è che la differenza tra quanto rende il nostro BTP a 10 anni e quello tedesco è ancora più alta dell'1,4%, 138 punti. Però è chiaro che c'entra anche il contesto internazionale. Se tu non hai molta liquidità e moltissima incertezza, che chiaramente il coronavirus va a aumentare in maniera esponenziale, vai a cercare un titolo di Stato italiano, è comunque più appetibile, più sicuro di quello che vedi sul resto del mercato. Questo è un po' anche il ragionamento. Comunque, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Abbiamo visto il petrolio crollare ai livelli più bassi da 13 mesi. Sempre di coronavirus stiamo parlando. Le borse europee oggi invece tentare un rimbalzo nonostante il crollo questa mattina delle borse cinesi, le due diciamo sul mercato interno, perché Shanghai e Shenzhen hanno fatto meno 7,5, meno 8 e meno 8%, Milano più 1%, Parigi più insomma, mezzo punto percentuale di rialzo, come Francoforte e come Londra. Eleonora. Sì, anche Wall Street va detto che comunque sì, tenta la strada del rimbalzo, ha aperto bene, anche ora gli indici sono tutti in progresso. Ovviamente c'è molta attenzione comunque a qualsiasi notizia sul coronavirus, quindi la situazione, come dicevi già tu prima, è assolutamente fluida anche sui mercati finanziari. Le borse cinesi hanno mandato in fumo 420 miliardi circa di capitalizzazione, 420 miliardi di dollari, d'altra parte erano rimaste chiuse tutta la scorsa settimana, sia per il Capodanno, sia ovviamente per le precauzioni prese per il coronavirus. E andando invece direttamente ai temi, oggi si ricercano più dei macro settori, si va a cercare un po' di porre l'attenzione sulle banche, visto che in Italia domani inizierà la stagione delle trimestrali. Ad aprire le danze sarà Intesa San Paolo, che oggi non a caso ha fatto più 1,7%, ci si aspetta infatti dei dati positivi. E poi sono rimbalzati tutti i titoli che hanno perso terreno la scorsa settimana, ad esempio ST Microelectronics ha fatto quasi più 2%, Prysmian più 4%. La notizia è su Nexi, che è volata del 5%, in questo caso la notizia non è prettamente su Nexi ma piuttosto sulle cugine di Oltralpe. In Francia è stata annunciata un'operazione di fusione tra Ingenico e Worldline, due società che praticamente sono attive nel settore dei pagamenti, fanno in Francia l'equivalente di Nexi in Italia, e da qui è ripartita la girandola di voci su un consolidamento del settore anche in Italia, e quindi chissà, un'operazione di aggregazione tra Nexi e SIA di cui già si parla da tempo. Dunque, è questo appunto per quello che riguarda i singoli casi, appunto Nexi è quello più eclatante. Migliori e peggiori: Tesla più 14,5, Trevi più 10,20, Novatech più 8,70, Health Italia più 7,90, Italia Independent meno 9%, Caledo Group meno 6,36 e Pris meno 6,31, i peggiori. Nel ringraziare Eleonora Micheli, segnalo che molti mi stanno scrivendo anche di altre fiere, adesso faremo un approfondimento anche nei nostri GR24, perché c'è il Mido a Milano, e quindi occhieria, c'è il Mobile ad aprile, c'è la moda, adesso, e qualcuno mi sta, poi mi stanno scrivendo, lo dico per far capire quanto è interconnessa l'economia. Mi stanno scrivendo anche agenzie di comunicazione e di allestimento degli stand, che sono i referenti europei per i brand cinesi, e sono preoccupatissime che tutto venga cancellato. Stiamo prendendo appalti su appalti, mesi di lavoro andati in fumo. Ancora i buyer cinesi, sto leggendo, è quello che mi arriva, i bar cinesi per la prossima Women Fashion Week di Milano, che praticamente adesso, dal 19 al 24 febbraio, stanno disdicendo tutti. Io non so neanche se alcuni possono venire, onestamente, perché oltre che disdire c'è il problema di arrivare in Europa e in Italia, perché quando tu hai la stragrande maggioranza delle compagnie aeree che hanno cancellato i voli, e faccio solo notare che hanno bloccato ad ora i voli British Airways, Air India, American Airlines, United Airlines, Lufthansa fino al 9 febbraio, però Lufthansa penso che andrà oltre, e anche Swiss Air, Austrian Airlines. Lufthansa ha 73 voli settimanali per la Cina, non uno scherzo, soprattutto per Pechino e Shanghai. Air Canada, Air France, la parte su One, Seoul, Asian Airlines, Air India, Finnair, potrei fare la lista infinita. KLM, che ha tagliato la maggior parte dei voli, non tutti, insomma. E la Turchia ha sospeso i voli dalla Cina. Il Pakistan ha riaperto i voli da e per la Cina. È chiaro che la preoccupazione è molto molto molto forte in questo momento. Andiamo sul traffico e continuiamo su questo. È difficilissimo fare previsioni, però perché chiaramente la variabile indipendente più importante è quanto durerà il blocco del traffico aereo, per quanto tempo circa 60 milioni di cinesi saranno bloccati nella loro città, per quanto tempo l'attività commerciale nel resto delle altre città, da Shanghai a Canton, a Nanchino, a Pechino, resterà bruscamente sottodimensionata. Queste sono variabili che non possiamo conoscere, ma si inizia a capire. E poi l'effetto allarme, panico, incertezza, chiamiamolo così, che è una cosa, è un effetto irrazionale, ma che ha conseguenze assolutamente razionali e concrete a livello economico. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Sì, vedo anche altri messaggi che riguardano settori minori, ma non per questo meno importanti. Mi scrive un ascoltatore che si sarebbero dovuti tenere le due fiere più importanti al mondo nel campo della musica, che sono in Cina, e Music China, Pechino e Guangzhou, sono saltate, e in bilico è anche Shanghai, che è la seconda più importante. E lì ci avrebbe dovuto accompagnare 100 aziende italiane in quelle fiere, che producono chitarre, violini, pianoforti e piccolo artigianato. Ripeto, non sarà il tema principale, ma è ugualmente importante, sono sempre 100 aziende. Giorgio Barba Navaretti, che insegna economia internazionale all'Università Statale di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Senta Barba Navaretti, noi abbiamo ricordato molte volte i nostri rapporti con la Cina: oltre 15 miliardi di esportazione, oltre 32 miliardi di importazioni. Quarto fornitore l'Italia fra gli Stati europei e la Cina, e per noi è il nono mercato di destinazione del nostro export. 1200 aziende con investimenti in Cina, 300 che hanno anche stabilimenti produttivi, e rappresentano 60.000 posti di lavoro e un fatturato di 5 miliardi di euro. Al di là delle borse, quindi Shanghai e Shenzhen, che hanno bruciato 420 miliardi, hanno perso intorno all'8% oggi, quali sono? Io non le posso chiedere una previsione, perché altrimenti lei avrebbe la sfera di cristallo. Però, da economista, quali sono le variabili che dobbiamo guardare con attenzione adesso per capire quale sarà che un impatto vi sarà? Mi sembra abbastanza scontato. L'intensità di questo impatto? Beh, intanto l'intensità e la diffusione di questo impatto risulta già dalle telefonate, dai messaggi che lei riceve, che veramente indicano quanto sia diffusa la preoccupazione di questa crisi e quanti settori, magari su temi e su cose che non si immaginano normalmente, verranno toccati da questa crisi. Quindi sicuramente l'impatto sarà grande. La Cina è grande quantitativamente, la crescita globale conta per un terzo sulla Cina, più di quanto non facciano addirittura gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone messi insieme, perché la Cina non solo è molto grande, ma la Cina cresce molto, no? Quindi è un po' il motore, se vogliamo, un motore fondamentale della crescita globale. Quindi, come titolava oggi il Financial Times, se la la Cina starnuta, il resto del mondo rischia di essere nei guai, quindi l'impatto sicuramente sarà grande. Poi i settori... Ecco, faccio notare una cosa, che il crollo del prezzo del petrolio di oggi, che è sceso, ha avuto il calo più brusco da... adesso riprendo l'agenzia perché era abbastanza impressionante il dato. Ecco, il Brent è sceso ai minimi da 13 mesi, però la domanda di petrolio dalla Cina è crollata di circa 3 milioni di barili al giorno, cioè il 20% dell'intero fabbisogno cinese, come se un barile su 5 non fosse più richiesto dalla Cina. È lo shock più pesante subito dalla domanda di petrolio dai tempi della crisi finanziaria nel 2008-2009. E anche dell'attacco delle Torri Gemelle come rapidità. L'ho interrotta, però. No, ma perché c'è la combinazione di due cose. Una, un tema di crollo della domanda, perché è chiaro che nel momento in cui tutto si ferma, le interrelazioni con il resto del mondo sono bloccate, quindi i consumi rallentano e si riduce anche la domanda di petrolio, ovviamente, e di materie prime energetiche. Ma al di là di questo c'è anche un problema logistico, no? Mi pare che lei ne parlasse già prima, cioè è molto complicato a questo punto far arrivare merci di qualunque tipo in Cina e trasportarle dalla Cina al resto del mondo. E questo ha un impatto complessivo che va insieme al sistema produttivo, perché per esempio in Cina si producono molte componenti anche per l'industria tecnologica, fra l'altro molte di queste si producono nella regione più colpita, nella regione del Hubei, che è dove c'è la città di Wuhan, dove ha avuto origine il virus. Quindi diciamo è molto perverso il modo in cui la crisi può avere un impatto sul sistema produttivo. È chiaro che se le industrie tecnologiche non riescono più ad avere i componenti necessari, questo è un problema molto serio. Senta, questa è l'interdipendenza, per cui da questo punto di vista però potrebbe esservi, cercando anche qualche buona notizia, almeno gli Stati Uniti e Trump potrebbero essere più cauti nel continuare una guerra di dazi, in questo caso non tanto con la Cina ma con l'Europa, cioè nel momento in cui l'economia mondiale va a rallentare per via della Cina, che come lei ricordava rappresenta un terzo del PIL mondiale e quindi andrà a toccare anche gli Stati Uniti, vi potrebbe essere qualche tensione in meno sui dazi, cioè non sembrerebbe aria, ecco, di dazi. No, beh, certamente in questo momento la cosa fondamentale è che ci sia maggiore cooperazione tra i paesi. Il fatto che oggi la World Health Organization ha dichiarato questo appunto una crisi globale fa sì che tutti i paesi in qualche modo sono obbligati a coordinarsi nei loro interventi, per esempio anche la riduzione dei viaggi e dei voli non può essere fatto in modo isolato da un singolo paese, ma ci vuole un maggiore coordinamento. Quindi è chiaro che questo anche si riflette in un diverso approccio per quel che riguarda i dazi o per quel che riguarda appunto i problemi della guerra commerciale. Per esempio non è chiaro che la Cina riesca oggi a comprare tutte le merci che aveva promesso di comprare dall'America Trump, i 200 miliardi. Esatto, allora, penso che ci sia un po' di indulgenza su questo. Ecco. Il Baltic Dry Index, che misura e mette assieme un indice che mette assieme i prezzi del nolo, dei cargo, quanto trasportano beni non energetici, non oil, è sceso, ha preso un'altra bella botta. Quanti punti percentuali lo chiedo fuori a 466 punti, quindi ben distante dai 700 punti del dopo crisi e distante anni luce. Ha perso il 4,30% oggi l'indice Baltic Dry e distante anni luce da come era pre-crisi, però insomma la dice lunga anche su come sta crollando il prezzo del nolo dei cargo. Un'ultima domanda, Barbara Navaretti, c'è secondo lei un elemento anche politico in questo danno economico? Mi spiego, alcuni hanno detto la Cina all'inizio ha minimizzato, non ha voluto diffondere le notizie, non riusciamo a fidarci fino in fondo delle notizie che arrivano da una non democrazia, inutile girarci attorno, minimizzavano ma intanto costruivano l'ospedale da 1000 posti letto, adesso un secondo. Questo aumenta l'incertezza è una pessima notizia in economia. Sì, però mi pare che tutta la comunità scientifica abbia sottolineato il fatto che la Cina ha reagito molto bene, per esempio sono stati i primi a isolare il virus, hanno messo a disposizione tutti i ricercatori i dati ottenuti, quindi diciamo i commenti principali sono che la Cina sta molto collaborando diciamo in questa fase di crisi. Quello che non deve avvenire invece è un processo di xenofobia, no? E quindi di paura in qualche modo che possa arrivare dalla Cina, possono arrivare virus, che quindi tende a guardare i cinesi in modo non oggettivo ma in modo piuttosto preoccupato e allargando l'allarmismo. Questo è un tema che può avere delle ricadute politiche su cui bisogna fare molta attenzione, ma mi pare che la comunità scientifica stia lavorando molto bene in modo totalmente cooperativo. Allora mi chiede invece un ascoltatore, io lavoro con la nostra azienda importa materie prime dalla Cina, materie prime e chimiche per poi trasformare. L'Italia è il secondo più grande trasformatore europeo. Bloccheranno anche le merci? No, da quello che si è capito le merci non verranno bloccate, non c'è pericolo nella merce che arriva. Il problema è che rischiano di non essere prodotte, questo lo dico l'ascoltatore, cioè se la produzione cinese è ferma, adesso hanno allungato le vacanze in un'area che vale l'80% del PIL cinese. Un conto è perdere una settimana, due settimane, e un conto è che questa cosa vada avanti un mese. Non è il problema delle merci in sé, è se riescono a produrle queste merci, per usare diciamo, una semplificazione. Grazie anche al professor Barba Navaretti, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia che torna domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Berrigioni intanto l'auguro di una buona serata.